si può fare. Cronache da un paese migliore di Alessio Maurizi. Buongiorno a tutti cari ascoltatori, ben ritrovati. Quando sono le 7:34 minuti di sabato mattina inizia una nuova mattinata in diretta su Radio 24 con Si può fare. Tra poco una veloce rassegna stampa, un'occhiata al giornale di oggi che ci accompagnerà fino al giornale delle radio delle 8 con anche gli aggiornamenti per quanto riguarda la situazione a Dhaka, il blitz che sembra essersi concluso ma non ci sono ancora notizie sicure sulla vita o la morte anche degli ostaggi. Ci sono diverse vittime sicuramente tra i terroristi che hanno tenuto in ostaggio una sessantina di persone, quindi i giornali da questo punto di vista sono sicuramente da prendere con le molle, bisogna stare sulle notizie dell'ultima ora. Ma iniziamo, intanto vi ricordo i nostri contatti se volete interagire con noi da subito in tempo reale: la pagina Facebook Si può fare trattino Radio 24, l'account su Twitter chiocciola Si può fare 24 e poi 349-238-6666 per l'SMS e anche su WhatsApp. Vai, iniziamo. E allora, come detto, cominciamo con i giornali, ma anche con uno sguardo alle notizie, perché bisognerà vedere se ci sono degli sviluppi in questi minuti sulla situazione appunto a Dhaka. E intanto le ultime notizie sui siti: comando ISIS assalta un bar a Dhaka, 7 italiani tra gli ostaggi, 26 morti e 40 feriti, 18 salvi, altri fuggiti. Sono state udite diverse esplosioni, il blitz nella notte con 100 militari, 6 i terroristi uccisi. I giornali riportano tutti a centro pagina, quasi tutti quelli che sono riusciti anche a dare spazio, sufficiente spazio a questa notizia. Il Corriere scrive: attacco ISIS, ansia per gli italiani, assalto in un ristorante a Dhaka, l'ambasciatore Palma, ci sono 20 ostaggi tra cui 7 connazionali. In Bangladesh il locale è frequentato da diplomatici, uccisi 2 agenti, la rivendicazione da parte dei terroristi, decine gli stranieri colpiti. Repubblica: Dhaka, italiani ostaggio dell'ISIS, assalto al caffè degli stranieri. E quindi le modalità si ripetono rispetto a quelli che sono stati altri attentati ai quali abbiamo purtroppo dovuto assistere negli ultimi mesi, negli ultimi anni, negli ultimi 2 anni ormai, dalla comparsa dell'ISIS nel 2014, comparsa ufficiale con le dichiarazioni dell'allora leader al-Baghdadi. Ma insomma il tenore dei titoli è lo stesso anche su altri giornali. Vediamo la Stampa: Bangladesh, ISIS all'attacco, 7 italiani tra gli ostaggi, un comando di terroristi ha assaltato un ristorante nel quartiere residenziale di Dhaka in Bangladesh nella notte del destino di Ramadan, quando i locali sono strapieni. L'ambasciatore italiano parla di 7 connazionali tra i numerosi ostaggi e aggiunge che gli assalitori non vogliono negoziare, è una missione suicida. I morti, secondo alcuni media, sarebbero 24, decine i feriti, ma le ultime notizie parlano di 26 vittime, 40 feriti e 18 ostaggi messi in salvo, altri che sono riusciti a fuggire, 6 i terroristi uccisi, per quanto riguarda appunto le ultime notizie. Ma prima di andare agli altri titoli del giornale, agli altri argomenti, non è possibile farlo subito perché bisogna approfondire, leggere per esempio sul Corriere l'analisi di Guido Olimpio che spiega l'installazione, insomma, come l'insediamento dell'ISIS è avvenuto in Bangladesh, anche in questo paese che forse fino ad oggi avevamo un po' sottovalutato. Prima uno stilicidio di omicidi, quasi 5 nell'arco di 18 mesi in diverse zone del Bangladesh, poi il salto di qualità con l'attacco seguito alla presa d'ostaggi secondo le tattiche impiegate prima da Al-Qaeda e quindi dallo Stato Islamico, che si è subito assunto assunto la responsabilità per dare maggiore peso alla sua campagna globale. Basta agire per essere inclusi nella chiamata alla lotta lanciata dal portavoce Mohamed Al-Adani nei primi giorni di giugno in vista del Ramadan, scrive Guido Olimpio. La tradizione estremista nel paese musulmano risale ai tempi della lotta contro i sovietici in Afghanistan, a fine degli anni 70. Allora molti bengalesi si sono uniti ai Mujahideen e successivamente non pochi sono confluiti nel movimento di Bin Laden. Poi veniamo a momenti, diciamo, a periodi più recenti. Nell'agosto del 2014, scrive Guido Olimpio, un nucleo di estremisti ha dichiarato la fedeltà ad al-Baghdadi, il leader dell'ISIS, un giuramento ribadito in ottobre. Come in altre regioni del califfato, i militanti hanno proceduto per tappe. Prima il proselitismo, l'attività di reclutamento e propaganda, lo studio dei possibili target. Il 28 ottobre del 2015, l'apertura vera e propria del fronte armato. I terroristi assassinano l'italiano Cesare Tavella. Pochi giorni dopo, nuovo colpo con l'omicidio di un giapponese. A seguire arriveranno anche altri episodi con le vittime travolte, aggredite anche a colpi di macete. Colpevolmente il governo del Bangladesh ha reagito con un atteggiamento incomprensibile e pericoloso, scrive Guido Olimpio sul Corriere della Sera, perché la linea è stata quella di negare l'esistenza dell'ISIS all'interno dei confini. Un atteggiamento negazionista, non proprio solo del Bangladesh, ma che sicuramente non è l'atteggiamento giusto per reagire e per prendere le misure con questa minaccia terroristica che, secondo un altro commento, un'altra analisi, quella sempre sul Corriere, rimaniamo a pagina a fianco di Lorenzo Cremonesi, si sta trasformando la minaccia dell'ISIS, sta cambiando pelle perché il califfato ha subito delle pesanti sconfitte laddove è iniziata la sua avventura, cioè in Siria e in Iraq, laddove si era pensato questa forma di estremismo violento di matrice islamica aveva pensato di erigere addirittura un vero e proprio Stato, lo Stato islamico per l'appunto. Ecco, in quelle zone si è perso terreno perché i territori persi in Iraq dall'ISIS sono il 47%, cioè quasi metà di quello che erano riusciti a conquistare in Siria. È stato ceduto il 20% delle zone che erano sotto il controllo dell'ISIS. Ci sono però ancora 5.000 miliziani presenti per esempio in Libia e questi sono cresciuti. Tra i 15 e i 25.000 sono presenti in Siria e in Iraq, sono queste naturalmente stime. Che cosa sta accadendo? Sta accadendo che mentre si perde terreno appunto in Siria e in Iraq, l'ISIS si trasforma, ritorna più simile a quello che era Al-Qaeda, cioè ad una rete terroristica clandestina, senza uno Stato, senza dei confini, senza dei luoghi geografici precisi, una minaccia quindi complessa ma che si sta trasformando. Alcuni osservatori, scrive Cremonesi, leggono nella ferocia con cui si accanisce contro civili innocenti una sorta di estremo singulto, l'agonia della disperazione prima della fine. In realtà l'ISIS cambia pelle, si rinnova e rinasce con vesti nuove. Siamo ormai lontani dall'universo del giugno 2014 quando il neo califfo Abu Bakr al-Baghdadi pronunciava arrogante il sermone della sua autopresentazione al mondo dalla moschea appena occupata nel cuore di Mosul, ricorderete. Oggi i suoi adepti agiscono nell'ombra, si muovono nella clandestinità di terrorismi più tradizionali. Quella che era la novità dell'ISIS, ovvero la dimensione semistatuale in Iraq e Siria, appare messa in dubbio, addirittura in crisi totale, scrive Cremonesi. Il califfato perde in Siria, dove la sua capitale Raqqa oggi è circondata da milizie curde, oltre che dall'esercito fedele a Bashar al-Assad e dalle formazioni di guerriglieri sunniti appoggiati dagli Stati Uniti, l'Arabia Saudita e alcuni tra i maggiori paesi del Golfo. Ancora in Iraq, dopo Tikrit e Ramadi, negli ultimi giorni l'ISIS ha perso il controllo anche su Fallujah. Di qui, scrive Lorenzo Cremonesi, la sua caedizzazione. L'ISIS rilancia come movimento terroristico classico, torna a somigliare alla Al-Qaeda di Osama Bin Laden, prima maniera, un gruppo di militanti fanatici dispersi nel mondo globalizzato del terzo millennio. Il fatto che sia meno stato organizzato su di un territorio ben definito e invece più movimento lo rende tra l'altro più difficile da colpire, cioè il punto da capire è che sì, è vero, l'ISIS nei luoghi di origine in Siria e in Iraq sta perdendo colpi, ma, e quindi sta perdendo confini, territorio, visibilità, ma la minaccia resta sempre, e ce ne siamo purtroppo accorti con questo ennesimo attentato a Dhaka, resta altissima e torna però ad assomigliare di più al terrorismo tradizionale, alle forme del terrorismo tradizionale. Ci fermiamo per una breve pausa sul traffico, torniamo tra pochissimo sul giornale di oggi. E allora eccoci qua di nuovo, buongiorno da Alessio Maurizio, ascoltatori ben ritrovati, una veloce rassegna stampa che ci accompagna fino al giornale radio delle 8, poi riprenderemo con Si può fare, 349-238-6666 se volete scriverci, sms, naturalmente anche su WhatsApp e poi la pagina Facebook, vi ricordo Si può fare trattino radio 24, l'account su Twitter chiocciola Si può fare 24, il mio account personale chiocciola Ale Maurizi. Le ultime notizie: 26 vittime, 40 feriti nel blitz dei militari nella notte dopo l'attentato terroristico al bar di Dhaka, 7 italiani tra gli ostaggi, non si hanno ancora notizie precise e ve ne daremo naturalmente nel corso della mattinata e soprattutto a partire dalla prossima edizione del giornale radio delle 8. Sui giornali altre notizie, restando sugli esteri, colpisce quello che accade in Austria, irregolarità al ballottaggio, Austria, elezioni da rifare. Questo è anche l'Europa Oggi, caos che si aggiunge al caos. Purtroppo il dopo Brexit, il presidente Juncker diventa un caso, così titola il Corriere della Sera. Caos in Austria, elezioni presidenziali da rifare, lo ha deciso la Corte Costituzionale dopo il ricorso dello sconfitto il candidato dell'ultradestra Norbert Hofer per irregolarità durante i ballottaggi che avevano dato la vittoria, ricorderete, al leader dei Verdi Alexander Van der Bellen per poco più, però erano pochi, di 30.000 voti e non sono bastati evidentemente. Allora, altre notizie, per esempio per quanto riguarda la cronaca, ergastolo a Bossetti per il delitto Iara, ma lui vi sbagliate, così Repubblica, i genitori, lei non torna anche se ora sappiamo la verità. Iara, ergastolo per Bossetti, DNA decisivo, scrive il Corriere, il muratore una mazzata, il commento, i genitori della ragazza, ora sappiamo chi l'ha uccisa. E su questa notizia titola a tutta pagina Il Giorno: è stato Bossetti, ergastolo, delitto di Iara, il grido del muratore prima della sentenza, l'assassino è libero. In lacrime la moglie Marita, è stato decisivo però il DNA, i Gambirasio, i genitori di Iara, che commentano: non abbiamo mai avuto dubbi. E poi insomma, pagine di cronaca, di approfondimento, le lacrime della moglie di Ferro, Marita, gli credo ancor di più, dice lei, c'è da restare a braccia aperte, basiti, ma è così, abbraccia il marito, è innocente, un bacio prima della sentenza. E questa è la moglie di Bossetti. Invece i genitori di Iara, strazio senza fine, adesso sappiamo chi è stato, ma aggiungo naturalmente nessuno potrà ridarcela. Invece altri titoli, altre notizie sui giornali, andiamo sul Sole 24 Ore che si occupa naturalmente della situazione delle banche in Europa, situazione sotto allarme, insomma, dopo la decisione anche dell'Europa di approvare un piano, uno scudo per sistema bancario anche italiano, scrive il Sole 24 Ore, banche centrali in azione, tassi dei bond ai minimi, borse ancora in rialzo ma soffrono i titoli bancari. La BCE si prepara ad allargare il quantitative easing, la Federal Reserve invece non aumenterà i tassi, Bank of England li taglierà. I mercati scommettono su interventi a breve delle banche centrali, scrive il Sole, per contenere l'effetto Brexit. Tra rumors e smentite, la BCE va verso l'estensione del quantitative easing, la Federal Reserve ferma il rialzo dei tassi, li taglierà invece in estate, scusate, la Bank of England. Ieri fortissimi acquisti sui bond governativi di Italia e Spagna, i cui tassi sono scesi ai minimi e borse ancora invece in risalita. Questo sul Sole 24 Ore di oggi. Poi altre notizie sono per esempio quella sulla Stampa, che a proposito della TAV dice: cambia il tracciato TAV, sfida di Renzi ai grillini. Intervista al ministro Delrio: risparmiamo soldi e territorio, una scelta ecologista. Di Maio che commenta la svolta di Palazzo Chigi, un contentino per imitarci. Vediamo qualche dettaglio in più. Delrio, appunto, in questa intervista alla Stampa dice: io sono un ambientalista, così si riduce l'impatto dell'opera, cambia la tratta italiana della TAV, costerà 2,6 miliardi di euro in meno, rivisitato il progetto non sarà realizzata la galleria da 20 chilometri a Torino. C'è tutto la mappa nella quale si vede il tratto di galleria da quasi 20 chilometri, rinviato al 2030 o cancellato, non si capisce bene, a favore invece di una tratta esterna superficiale che è più corta, e quindi il risparmio da questo punto di vista di 2,6 miliardi, una scelta che il ministro Delrio rivendica come una scelta più ambientalista. Il commento del grillino Di Maio, che da sempre il Movimento 5 Stelle è contrario alla TAV, Di Maio dice: sono solo dei contentini, fanno propaganda per imitarci. Il leader del Movimento 5 Stelle, se vince il no al referendum, sarà una svolta come Mani Pulite e inizierà lo sfaldamento dei partiti. L'Italicum, noi continueremo a opporci. E questa è l'intervista di Luigi Di Maio sulla Stampa, nella quale su questo aspetto annuncia l'opposizione del Movimento 5 Stelle sull'Italicum, ma il Movimento 5 Stelle sembra chiaro che non abbia alcuna intenzione di modificarlo, perché tutti i sondaggi indicano, questo è puro calcolo politico, ma ci sta, è sempre stato, quasi sempre stato così per la legge elettorale, ognuno si fa i suoi conti, i sondaggi dicono che al ballottaggio andrebbe il Movimento 5 Stelle con il PD e il Movimento 5 Stelle avrebbe grandi possibilità di vittoria. Scatta l'alleanza anti-euro, il titolo di Libero. Salvini, Di Maio, Meloni. Finalmente anche in Italia nasce un'intesa interpartitica per sollecitare l'uscita dalla moneta unica. La raccolta di firme di Libero per votare contro l'Unione Europea trova sostenitori su tutti i fronti. Manca un minuto? Siamo quasi in chiusura? Sì, mi pare di sì. Un minuto e mezzo. Dobbiamo per forza andare sulla Gazzettona, perché stasera tocca all'Italia. Bisogna vedere un po' come va a finire. Italia, cantagliele. Quarti di Euro 2016 a bordo ore 21. C'è la Germania, la madre di tutte le partite. Urliamo il nostro inno. E allora la scelta della Gazzetta è quella di mettere le foto dei protagonisti, dei giocatori dell'Italia, da Buffon a Eder, tutti insomma, con ognuno un pezzo dell'inno d'Italia, Fratelli d'Italia, Italia se desta, dell'elmo di Scipio, se cinta la testa, eccetera eccetera. La formazione, insomma, quella che viene data come la formazione possibile: Buffon, Chiellini, Bonucci, Barzagli e fin qua la difesa di ferro della Juventus, che ci ha regalato tante soddisfazioni. Poi a centrocampo Florenzi, Sturaro, quindi l'ingresso di Sturaro, Parolo al posto di De Rossi, Sturaro al posto di Parolo, Giaccherini, De Sciglio e fin qua giocatori che abbiamo già visto in azione. In attacco Eder e Pellè, che speriamo entrambi di rivedere vicini alla rete avversaria, palla al piede. Regalateci un'altra leggenda, serve l'ennesima impresa, Germania porta del mito, l'Italia sa come entrare. E questo è l'auspicio. Ci fermiamo qua con la rassegna stampa, ci risentiamo subito dopo il giornale delle 8 con Si può fare. Ciao. Io vorrei un'Europa fondata sul lavoro. E tu come vorresti l'Europa? Ogni giorno alle 14 alle 21.30 Europa 24 ti aiuta a costruirla, informandoti in tempo reale sulla situazione politica, economica e culturale dell'Unione Europea, per essere davvero cittadini d'Europa. In collaborazione con Euronet Plus. Il segnale orario vi è offerto da Assicom, vendi bene e incassa meglio. Marketing, informazioni commerciali e recupero crediti. Assicom.com. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Uptown funk you up. Uptown funk you up. 'Cause uptown funk don't give it to you. 'Cause uptown funk don't give it to you. Don't believe me, just watch. Eccoci qua, buongiorno a tutti, ben ritrovati ascoltatori, buongiorno da Alessio Maurizi. E buongiorno da Carlo Gabardini, buon sabato. Allora, quando sono le 8 e 19 minuti e 40 secondi, una nuova puntata di Si può fare. Carlo, Milano, Monterosa. Bigio che non si capisce. Che fa rima fuori... con grigio, chiaramente. Esatto, è a Milano, quindi è giusto. Meno sole del solito. Insomma, però sempre caldino. Questa estate che a stento, ma sta decollando, insomma, almeno nelle temperature. 800 24 00 24, vi aspettiamo, cari ascoltatori. Beh, insomma, oggi è la grande attesa. La vigilia. La vigilia di tutte le partite, direi. La madre di tutte le partite. La madre di tutte le partite stasera. Anche a chi non gliene frega un tubo del calcio, non puoi non aspettare questo momento con un po' di emozione. Anche perché è anche uno scontro politico, direi, no? È uno scontro culturale, è uno scontro di... Appunto, la madre di tutte le partite, stasera alle 21. E allora, in attesa del grande match Italia-Germania, questo quarto di finale degli europei, vediamo se ripeteremo i miracoli fatti con la Spagna. Vi chiediamo, cari ascoltatori, di rinverdire i vostri ricordi e anche i riti propiziatori, cioè le scorse sfide Italia-Germania. Cioè, che cosa stavate facendo, che cosa avete fatto in tutte le vecchie sfide di Italia-Germania nel 2006 o anche quella dell'82 o anche la famosa Italia-Germania 4-3. Intanto, perché se qualunque cosa steste facendo stasera tocca rifarlo, perché abbiamo sempre vinto e tocca vincere anche stasera, quindi tocca rifare gli stessi gesti scaramantici, oppure se vi ricordate che eravate lì seduti su quel posto insieme a vostra cugina, dovete chiamare vostra cugina e rimettervi insieme, guardare insieme la partita. Eravamo tutti più giovani, tutti più belli, sì. E questo anche fa parte del ricordo. Ma insomma, 2006-82, ma c'è anche il 70 1970, certo. Io lì non c'ero ancora, però insomma i racconti, io non rilascio dichiarazioni, sono epici. 800 24 00 24 anche oggi i biglietti per la mostra di Miro allo splendido Mudec di Milano, per l'intervento che ci convincerà. Abbiamo provato ad avere i biglietti, sì, per Italia-Germania, mandarvi direttamente in Francia a vederla, invece ci sono i biglietti del museo, ma va bene anche così. Ovviamente oltre a tutto quello che avete fatto nelle vecchie antiche edizioni della sfida Italia-Germania, però potete anche raccontarci dei nuovi riti, che sono quelli che intendete fare quest'anno, ovvero da adesso fino alle 21 precise, in modo che si riesca a vincere questa partita. E allora, tra poco invece parleremo di tutt'altro, perché nell'Inghilterra della Brexit non c'è soltanto il passo indietro dell'ex sindaco Boris Johnson nella corsa alla leadership dei conservatori e del governo britannico dopo le dimissioni di Cameron, ma c'è anche un'altra notizia che impazza: è il sito internet che incentiva la poligamia tra i cittadini islamici, che imbarazza o meno, adesso vedremo un po' tutti. È segno che certe vecchie abitudini sono difficili a perdersi. Dici quella della poligamia? Sì, certe vecchie abitudini, però possiamo dire una cosa, nel senso che è vero, tu lo leggi e adesso già mi spezzo una lancia a favore della poligamia. Ma non è a favore della poligamia, ma diciamo che tutto questo dire, ma possibile, addirittura hanno un'app che si chiama Second Wife, per avere una seconda moglie, ma è un'app di incontri, nel senso che va benissimo da noi, nel senso che se uno invece è sposato e poi va a letto con un'altra e dà un amante e la cerca con un'app, nessuno dice niente, non c'è nessunissimo problema. Invece se uno decide di sposare sposarle entrambe, cioè di sposare sia propria moglie, di sposare anche la propria amante, invece quello diventa gravissimo. Sto, ovviamente non è che sono a favore della poligamia, ma un sito per incontri, sì, che poi loro si sposano o non si sposano, a me non cambia niente. È chiaro che sia un sito per incontri. Vedremo se è così. Però la poligamia è vietata, per esempio anche in Inghilterra, e quindi non si può fare. Allora, 800 24 00 24, ne parleremo con una donna tra poco, una donna amica delle donne e dei diritti. Andiamo, iniziamo, vai. Ho visto un uomo che moriva per amore. Ne ho visto un altro che più lacrime non ha. Nessun coltello mai ti può ferir di più di un grande amore che ti stringe il cuore. 10 ragazze per me possono bastare. 10 ragazze per me voglio dimenticare. Capelli biondi da accarezzare e labbra rosse sulle quali morire. 10 ragazze per me, solo per me. Potevamo noi non iniziare così, con questa scelta musicale, l'argomento della poligamia. Qualcuno dice un istinto naturale dell'uomo, quello di accoppiarsi con più persone, anche contemporaneamente, sì? O anche una dopo l'altra. Noi abbiamo deciso di parlare di questo argomento e anche di altro con una donna che ha avuto il coraggio recentemente di aprire una questione sul ruolo delle donne nell'Islam. Lei è Marian Ismail, ex componente della segreteria del PD di Milano. Buongiorno Marian. Buongiorno a voi, buongiorno agli ascoltatori. Allora, recentemente ha dato le dimissioni addirittura dal suo partito, il Partito Democratico, in polemica proprio con in particolare i dirigenti milanesi del PD, perché dice hanno un'interlocuzione privilegiata con l'Islam moderato e non con un Islam più progressista, più laico, come lei, per esempio, come Miriam. Allora, io intanto le voglio chiedere, anche la poligamia fa parte di questo Islam più oscurantista, più conservatore, di questo modo di intendere la religione islamica più conservatore di cui lei parla? Sì, tanto l'Islam ha nella sua componente la poligamia, che è una poligamia accettata, istituzionale e praticata, quindi qui non si tratta di laici o non laici, perché secondo me, secondo poi chi ha idee progressiste, sinceramente la poligamia è uno step, insomma è una situazione da superare. Io partirei intanto dal dire che non è un Islam moderato, quello per cui io mi sono in qualche modo messa di fronte, dire di no, ma è un Islam ortodosso, quindi intanto i termini devono essere corretti. Sì, mi sono espresso male io, in realtà no, proprio... però non si capisce, se sì, è moderato non c'è bisogno. Un Islam di... conservatore, ortodosso, esatto, che interpreta troppo, esatto, alla lettera certi alla precetti. Lettera. Esattamente questo, che oggi non ha, in qualche modo deve essere rivisto o comunque accompagnato a una certa apertura, tale per cui questo ci garantisce una convivenza civile e soprattutto una convivenza rispettosa della nostra Costituzione. Mi spiega? Sì, prego, prego. Io parto invece dal fatto che la poligamia è improponibile, perché se posso fare una battuta... Sì. Pesante, quattro suocere diventa un problema davvero enorme per gli uomini. Sì, detto sì, questo, sì, penso di sì, penso di sì. Ecco, credo che tutti ne convenga. E detto questo, si tratta di capire la sottile differenza che qui si vuole presentare con Second Wife. Second Wife ci dice che in questo sito si incontrano in maniera islamica, quindi niente foto provocanti delle donne, niente uomini a petto nudo, ma ci si conosce secondo una scheda che si compila, e se ci si piace, perché no, ci si sposa. Allora anche qui si deve fare un attimo di attenzione, perché cosa significa sposarsi, significa che in Inghilterra c'è comunque una sciateria diffusa e praticata rispetto alle leggi inglesi. Questo è il punto dirimente, secondo me. Qualcuno però, Carlo, volevi fare una domanda? No, quello che volevo capire era che giustamente si dice che è per trovare una seconda moglie, ma sostanzialmente è un sito per incontri, giusto? Nel senso che non è che poi uno è obbligato a sposarsi. Sì, no, sembrerebbe un sito per gli incontri e poi quando ci si incontra che si fa? Ci si piace, che si fa? E qui propone, ognuno fa quello che vuole. Di lettura, proponiamo un matrimonio che comunque nell'ambito islamico sciaritico è corretto. Poi loro dicono se non viene registrato è come se fossimo fidanzati. Esatto. Perché in Inghilterra è proibita la poligamia, quindi il matrimonio non può avere effetti legali, però no. È comunque una questione culturale sicuramente. Bravissimo. All'interno dell'Islam, anche se mi ha colpito, anche se poi non è stato confermato, addirittura l'ex moglie del sindaco di Londra, Boris Johnson, pare che a un certo punto si sia fidanzata con un giovane musulmano e già sposato e abbia detto: io non ho alcun problema rispetto alla poligamia, lei è una donna in carriera, perché dice: io non ho tempo da dedicare a un uomo tutto per me, quindi va benissimo il concetto della poligamia. E pare che questo, qualcuno scrive in Inghilterra, sia una tendenza, secondo lei è verosimile, anche di donne in carriera impegnate che vogliono vivere in maniera disimpegnata il rapporto con un uomo, e quindi sarebbe, come dire, il rovesciamento, quasi una nemesi di questa poligamia in chiave femminile. Ci crede? È realistico o no? Beh, esiste la poliandria in certe società come quelle indiane, per esempio, donne che hanno più mariti, e anche lì viene legittimato in un contesto religioso, quindi non c'è nulla di nuovo da questo punto di vista. Il punto è, c'è bisogno di l'ex moglie del sindaco Johnson è una delle mogli di questo musulmano, non è che è lei che si è tenuta più mariti, ecco, non stiamo parlando di poliandria. Voglio dire, sarebbe stata, come dire, anticipatrice di un nuovo trend. No, se lei va bene, però non ha senso, nel senso, se è illegale, la signora è in una situazione di illegalità. Se poi vuole essere l'amante di questo signore, per carità, non c'è nessun tipo di problema, ma qui si va a innestare però in un'altra situazione. Sì. C'è un percorso olandese di cui si parla dal 2005, dove l'Olanda sta facendo un percorso di riconoscimento dei matrimoni poliamorosi, quindi sì. Qual è la differenza fra poligamia, poliandria e poliamorosità? Insomma, il mondo sta cambiando e pone dei dubbi e dei quesiti molto molto forti. Bisogna capire che cosa veramente vogliamo normare, che cosa davvero in maniera corale e laica, questo sì, e laica, gli stati vorranno in qualche modo percorrere e tutelare i diritti delle donne. A quel punto, se parliamo di una poliamorosità e di una scelta, sì, tra adulti, è bene metterci la testa, insomma. Certo, lei dice quindi questa forma di poliamorosità potrebbe anche essere, perché no, una riscoperta dei cambiamenti nuovi del futuro che stanno arrivando, ma sarebbe cosa diversa dalla poligamia così come è vissuta nell'Islam. Perché unidirezionale, la poligamia è un uomo con quattro mogli, certo. La poliamorosità ha una pari opportunità, quindi incominciamo anche ed è una differenza non da poco, non da poco, corretta. Certo. Senta, proprio a proposito delle pari opportunità, del ruolo delle donne e di come questo Islam più ortodosso, per esempio in Italia, abbia questo tipo di relazioni con l'universo femminile, ma più in generale con la laicità, i diritti. Lei è uscita dal suo partito, il PD, in polemica perché dice il PD sta dialogando con l'Islam ortodosso, non con la parte più progressista. In che modo starebbe avvenendo questo? Ci vuole spiegare? Ma guardi, questo è iniziato già dal 2011 con la giunta Pisapia, nel senso che c'è stato sempre un dialogo che ha favorito quella parte più minoritaria ma più organizzata. E cosa significa? Che c'è dalla parte dei musulmani laici comunque un difetto di base, come tutti i laici non ci siamo organizzati in un'associazione piuttosto che in un movimento, piuttosto che non ci siamo palesati perché non riteniamo, essendo cittadini, necessario che ci si palesi da questo punto di vista. Però la questione diventa oggi importante perché parlare soltanto con un Islam minoritario. Quando si parla di un Islam ortodosso, tenga presente che su 1.300.000 persone è il 18% la componente che sceglie una scuola giuridica come quella wahhabita, quindi una componente sicuramente minoritaria. Ecco, portare avanti le istanze di una componente sicuramente minoritaria rispetto alla larga fetta della comunità musulmana, moderata, laica, progressista, chiamiamola, o comunque silenziosa, pacifica, chiamiamola come vogliamo, pone un forte dubbio, perché se da una parte si propone un Islam ideologico, un Islam politicizzato, un Islam fortemente connotato e quindi non si nasconde rispetto alle proprie visioni, dall'altra però va a imporre tutta una serie di usi e costumi che magari poi la maggioranza della gente non sceglie. Per esempio sulla questione del velo, ovviamente il velo è un fatto personale, chiunque se lo può mettere a suo piacimento, però se un velo ideologico diventa un connotato. Sappiamo che spesso sono delle imposizioni indirette, magari all'interno di famiglie dove ci sono dei retaggi culturali antichi o una mancanza di visione del futuro, dei diritti, delle pari opportunità, e dove anche a volte indirettamente, senza dirlo chiaramente, però il velo poi diventa di fatto una imposizione. Ma guardi, c'è sia questa versione che un'altra versione, che è una scelta personale, quindi diventa una scelta politica, e la stessa scelta politica secondo me ha il suo modo di essere e il suo diritto ad essere. Io non contesto questo, io contesto la stereotipizzazione, cioè mi si riconosce come musulmana attraverso quel modo di fare, cioè la barba per gli uomini, il velo per le donne, oppure in quanto musulmana perché prego e faccio il Ramadan e sono comunque come tutti gli altri cittadini islamici del mondo. Ma come mai quello che ci chiama, e come mai questo 18%, come dice lei, che è minoritario, in realtà però vi oscura, nel senso che è molto più raro sentire dire la parola laico, cioè, diciamocelo chiaramente, nei confronti a noi piacerebbe musulman, è moltissimo, piacerebbe poter dialogare anche a noi con moltissimo. Come mai con, voi 82% che come stava dicendo siete laici, ma non vi siete organizzati, a parte che anche i laici possono organizzarsi, non è che bisogna essere per forza religiosi. Ci organizzeremo anche noi, ma è una questione di fondi e di divisioni, nel senso che chi è organizzato si organizza, cerca i fondi, hanno i fondi, hanno i soldi e hanno un obiettivo da raggiungere. Lei dice che ci sono i soldi che arrivano da dove? Arrivano da dove i soldi, per esempio, per l'Islam ortodosso in Italia? Beh, lo si sa perfettamente. Dall'Arabia Saudita. Tutti gli Islam ortodossi nel mondo, le fonti sono quelle, sono il Qatar, sono l'Arabia Saudita, ma questo è normale, voglio dire. Oggi è la Turchia, quindi è normale, però pone dei problemi, mi sembra di capire. Io sono d'accordo con lei. Pone dei problemi, certo. Nella Lega Araba, figuriamoci se non lo pone nel resto del mondo. Certo. Non è soltanto Milano, l'Italia, è proprio il mondo islamico che è messo in mano a una situazione davvero pesante. Senta, quindi... ma Miriam, ci dica soltanto una cosa, che poi dobbiamo salutarci, dobbiamo chiudere questo collegamento. Ha avuto una risposta soddisfacente in qualche modo a questa sua lettera a Renzi, questa provocazione che mi sembra che colga nel segno dei tempi che stiamo vivendo? No, io Renzi ancora non mi ha risposto, dal partito nessuno mi ha contattata, quindi continuo, vorrò essere una cittadina che si misurerà con le istituzioni al di fuori delle istituzioni. E noi saremo al suo fianco se lo vorrà, perché crediamo in quello che sostiene, e invitiamo Renzi, chi sta vicino a Renzi, chi sta sotto Renzi, chi è grado di parentela quarto con Renzi, di avvisarlo che è arrivata questa lettera importante che pone la questione del rapporto tra l'Islam e la nostra cultura, i cittadini di religione islamica che stanno in Italia, la parte più progressista che guarda ai diritti e alle pari opportunità. Noi ci crediamo. Grazie Miriam, grazie per essere mille. Stato con noi. Grazie a voi, buona giornata. Grazie altrettanto. 800 24 00 24, siamo andati un po' lunghi, una pausa, torniamo tra pochissimo anche con i vostri racconti delle Italie Germanie del passato, riti propiziatori. Si può fare. Cronache da un paese migliore. E allora, di nuovo, buongiorno e ben ritrovati da Alessio Maurizi. E da Carlo Gabardini, buongiorno. All'800 24 00 24 ci ha chiamato Giovanni da Torino, buongiorno, benvenuto. Buongiorno, grazie. Buongiorno. Ciao Giovanni, su cosa volevi intervenire? Volevo intervenire sull'argomento della poliandria, poliamorosità, poligamia. Mm-hmm. Sì. Sì. Volevo dire che la poligamia è fondamentalmente una conseguenza logica del fatto che ad oggi il fondamento che viene posto nella relazione familiare, sì, quindi del matrimonio, è il sentimento. Quindi, come la Corte Suprema dell'America aveva riconosciuto che, essendo il fondamento della famiglia il sentimento amoroso, e quindi anche una coppia, per esempio, omosessuale, deve essere riconosciuta come famiglia, e quindi poter stipulare il matrimonio, sì, così, a rigor di logica, anche una relazione fra più persone, se è il sentimento libero, consapevole, che le lega, deve essere, sì, a rigor di logica riconosciuto. Tanto che il gruppo... Però attenzione, Giovanni, perché un conto è questa poliamorosità o poligamia basata sul sentimento. Un conto è la poligamia così come nasce e si sviluppa al momento nel mondo islamico, dove un uomo può avere quattro mogli. Però deve chiedere il permesso, deve chiedere il permesso alle altre, sì, donne, nel senso che un uomo sposato deve chiedere alla sua prima moglie prima di poter prendere in moglie una seconda donna, e alla terza deve chiedere alla prima e alla seconda moglie se accettano la terza moglie, quindi in realtà c'è senso, ecco. La cosa brutta, infatti giustamente parli di anche di poliandria, la cosa sicuramente e totalmente ingiusta è che è solamente per gli uomini, per quanto riguarda il mondo musulmano, cioè solamente gli uomini possono prendere in moglie più donne e non viceversa, e questo, diciamo, anche per un concetto laico è molto difficile da comprendere. Il problema è che noi laici, cioè nel mondo occidentale, si è riconosciuto come base la famiglia e il sentimento. Infatti il gruppo in America, sono più o meno 30.000 che vivono vicino a Dallas, che vivono come poliamorosità, hanno fatto ricorso alla Corte Suprema richiedendo un riconoscimento giuridico del loro amore. Cioè, io credo che molti islamici che praticano la poligamia di fronte a questa comunità di Dallas poliamorosa resterebbero abbastanza sconvolti, perché non è esattamente la stessa cosa. Questo ci tengo a sottolinearlo. Comunque, Giovanni, grazie. E questo è un po' quello che diceva anche Miriam, che in forme diverse la poliamorosità potrebbe essere sicuramente una frontiera dei diritti del futuro, però riconoscendo pari diritti e pari opportunità a tutte le persone coinvolte. Certo. Questa è la differenza, è quello, sì, che dicevi tu, sì, prima, sì, sì, mi guardavi, sì, con aria, no, attonita. Ti guardavo con aria attonita perché stavo pensando anche all'ascoltatore che giustamente pensando a Italia-Germania, aveva buttato lì l'ipotesi appunto anche delle coppie, sì, omosessuali, che ricordiamo che in realtà la legge Cirinnà è stata tolta la fedeltà, quindi in teoria noi omosessuali siamo più vicini alla possibilità della poligamia. Siete più avanti. È ovviamente una stupidata quella che sto dicendo, perché siete la fedeltà... più avanti, è ovvio, è, esatto, ovvio. Italo da Napoli, buongiorno. Buongiorno a voi, Carlo e Alessio. Ciao, Italo, su cosa volevi intervenire, caro? Ma avete parlato della madre di tutte le battaglie, quindi Italia-Germania. Sì, signore. Sì, oggi è così, oggi è così. Oggi è così. Allora, rapido, in 1982 quattro giovani napoletani partono in auto, praticamente rubata al padre di uno dei quattro, e arrivano a Madrid. Senza biglietto riescono ad ottenerlo grazie a Carletto Del Gaudio, che era l'accompagnatore ufficiale della Nazionale napoletano, presidente della Canottieri Napoli, e io mi vesto da Pulcinella per scaramanzia, vedo tutta la partita che vinciamo con la Germania sugli spalti sì, dello stadio, e viviamo questa aspetta, notte magica. No, aspetta, è una storia stupenda. Allora, intanto l'auto rubata, per fortuna al genitore, perché sennò partiamo da Napoli con l'auto rubata, già partivamo... Il genitore era Ischia in vacanza, certo, e non sapeva che noi eravamo partiti, no, con ma la macchina. Solo uno scherzo. Si chiama in prestito. Ma come prestito. Questo però misura la distanza, credo, tra oggi e l'82. Cioè, voi avete trovato il biglietto andando lì così il giorno stesso della partita, cosa che credo oggi sia per una finale di un mondiale. Beh, al momento stiamo parlando di napoletani che parlano con altri napoletani che si vestono da Pulcinella. Allora lì è tutto. Mi sembra concesso. Straordinario questo. Però posso dire una cosa, Italo? Purtroppo a questo punto devi prendere il tuo vestito da Pulcinella e andare a Madrid, rubare la macchina a chi vuoi tu fra i tuoi parenti, e andare in Francia ad assistere a questa partita. Devo andare a Bordeaux o devo andare a Madrid? A Bordeaux. Devo dare una brutta notizia, perché questo l'ho già fatto nel 2000 quando sono andato con, sì, un altro mio amico a vedere la finale proprio contro la Francia degli europei, e non mi è andata bene, ricordate? Però era la Francia, adesso o le propongo, sì, in veste diversa, oppure mi sa che devo inventarmi un altro personaggio col quale no, perché la è la Germania, bravo, con la Germania Pulcinella, con la Francia bisogna vestirsi da pizza. Vale solo con la Germania. Esatto. Vabbè, allora stasera mi vestirò da Pulcinella. Insomma, questo è sicuro. Vogliamo una foto, postata su Twitter e Facebook, di si può fare. Però bravo, però almeno devi metterti davanti a un quadro, una cartina geografica di Bordeaux, qualcosa anche che riguarda una bottiglia di buon Bordeaux. Dobbiamo ricreare l'accoppiata tra la città che ospita la partita, in questo caso Bordeaux, e tu vestito da Pulcinella, e allora sì che andiamo a vincere. Bottiglia di Bordeaux, io vestito da Pulcinella, televisore, perché non ci arrivo ad arrivare a Bordeaux, certo. In giornata, televisore con la partita. Vai. Se vinciamo, ve lo posso grandissimo, subito grandissimo. Ci sentiamo domani. Ma anche se non vinciamo, noi la vogliamo vedere comunque. Ciao Italo, grazie. Grazie mille. Ciao, buona giornata. Traffico. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Molti hanno adottato loro come seconda squadra da tifare a questi europei di calcio. Soprattutto quasi... quelli che hanno già perso la loro di squadra. E soprattutto loro, almeno che non siano stati eliminati da loro. Quasi tutti i giocatori hanno un secondo lavoro. Ci sono elettricisti, dentisti, registi. C'è tutto là dentro. Fino a poco tempo fa erano solo una Cenerentola. Adesso invece se la giocano ai quarti con i padroni di casa della Francia. Parliamo naturalmente dell'Islanda. L'Islanda. E allora, c'è un luogo in Italia dove la vicenda è particolarmente sentita. È la provincia di Parma, dove stanno lavorando a pieno ritmo quelli della RA, lo sponsor tecnico dell'Islanda, che produce le magliette che adesso tutti vogliono. Tutti e quindi vogliono, è un disastro, magliette. Perché loro devono produrre anche probabilmente tutta l'estate, tutto agosto. Cioè, più niente va avanti vacanze. L'Islanda, più i lavoratori della RA dovranno lavorare per produrre queste magliette che tutti vogliono, perché la voglio anch'io, per fare un esempio. Ma loro credo che ne siano felicissimi. Fabrizio Taddei, export manager di RA Sport, buongiorno e buon sabato. Buongiorno, grazie per aver chiamato, buongiorno a tutti. Buongiorno. E allora, ci racconti un po' questa favola, questa leggenda. Davvero state lavorando a pieno ritmo perché è esplosa la voglia di Islanda? Sì, stiamo lavorando giorno e notte. Noi siamo un'azienda manufatturiera, quindi siamo dei produttori. Diciamo che già da un po' che stiamo lavorando sull'Islanda. Ci avete puntato gli occhi qualche anno fa. Questo va detto. Beh, perché già dal 2002 non è che infatti, è interessante. Infatti. Io diciamo visito l'Islanda per motivi di lavoro dal 97 e dal 2002 assieme al nostro distributore lavoriamo con la federazione, quindi abbiamo un contratto con la federazione islandese che è stato recentemente rinnovato fino al 2020. E questo è quello che ci rende più orgogliosi, perché diciamo, non l'abbiamo scoperta ieri o un mese fa, ci lavoriamo da 14 anni e ci lavoreremo sicuramente fino al 2020. Soprattutto, se posso dire, mi sembra di aver capito che nel momento in cui l'Islanda è stata ammessa agli europei, che altri colossi mondiali del settore sportivo sono hanno detto avanti. Ve le facciamo noi le maglie. E quindi c'è anche, no, lo racconti lei ovviamente, mi sembra di aver capito. Capito che c'è anche un bellissimo patto di onestà fra di voi, perché la stessa Islanda, che a quel punto avrebbe anche potuto rivolgersi a qualcun altro, invece ha detto no, noi ci teniamo esatto. I nostri di Parma perché sono i più bravi, insomma. Esatto. È andata esattamente così. È ovvio che diciamo, i grandi colossi del nostro settore, che è lo sportswear, in particolare il teamwear, cioè l'abbigliamento per le squadre, è quello dove noi siamo specializzati. fanno un po' shopping prima, prima dei grandi, dei certo. grandi eventi. Il nostro contratto scadeva proprio diciamo appena dopo la fine degli europei, quindi hanno provato a portarceli via. È bello, ed è questo, come ho detto prima, che ci rende veramente orgogliosi, che assieme abbiamo deciso che è stato deciso che insomma anche la collaborazione, la partnership, l'essere cresciuti assieme, noi come azienda, loro come federazione, come squadra, ha un valore. E questo è visto che, è, visto è che in qualche modo esatto, Taddei, in uno visto, sport, visto prego, che in qualche modo vi guardate allo specchio, voi e l'Islanda, un percorso simile, outsider che crescono, piccoli che diventano grandi. Qual è il segreto in questo momento, secondo lei, di questa nazionale di calcio e di questo paese che sta vivendo, anche dal punto di vista del turismo, leggiamo dai dati, una rinascita? Secondo me è il loro grande senso di appartenenza, è un popolo meraviglioso, come poi tutti i popoli scandinavi hanno una grandissima cultura del lavoro, che è la stessa che cerchiamo anche noi nel nostro piccolo di applicare in azienda tutti i giorni. Ognuno di noi, ripeto, noi siamo piccoli, possiamo solo vincere se facciamo squadra. So che sembra un discorso retorico, ma è la verità. È la verità. Immaginiamo. E questo è quello che fanno loro. Una cosa che io ho visto proprio insomma, con i miei occhi da tanti anni sono gli investimenti che hanno fatto in infrastrutture, quindi campi coperti, perché gli inverni sono lunghi, sono bui e sono freddi. È molto freddi. Sappiamo che poi sono passati attraverso una grave crisi, anche loro ne sono usciti in una maniera un po' particolare, questa però è un'altra storia. Le voglio chiedere però, sul sito RA si dice che le magliette saranno disponibili di nuovo a partire da oggi, però ancora non le abbiamo trovate. Ci saranno in giornata? Da lunedì. Le spiego, noi abbiamo dato priorità ai nostri distributori, quindi tutte le magliette extra che sono state prodotte in meno di una settimana, quindi tutte quelle che abbiamo spedito questa settimana, proprio grazie alle nostre unità sono andate nei negozi e quindi sul sito ci saranno da lunedì. Complimenti per tutto. Grazie mille, grazie per la chiamata. Speriamo che la favola continui. Comunque, insomma, noi siamo strafelici anche così. Una finale Italia-Islanda, no, un quarto, una semifinale Italia-Islanda potrebbe esserci, se noi battiamo la Germania, ma non la batteremo, ma no, perché naturalmente siamo scaramantici, quindi al momento non parliamo di quello che può accadere dopo. La madre di tutte le battaglie, che è stanotte alle 21. GR. Il segnale orario vi è offerto da Assicom, vendi bene e incassa meglio. Marketing, informazioni commerciali e recupero crediti. Assicom.com. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Abbiamo convocato, prendiamo l'espressione a prestito da tutti i convocati per questo sabato mattina Francesco Bonami, critico d'arte. Buongiorno, buon sabato. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. E allora, perché oggi e domani abbiamo l'occasione di vedere, scoprire, andare a visitare, insomma, tanti musei, soprattutto quelli statali, in occasione della festa dei musei, appunto oggi e domani, ingressi scontati, soprattutto stasera. Stasera in orario serale si può andare a vedere il museo ad un euro. Stasera però come si fa? È vero? Stasera anche c'è gratis, partita. C'è la partita, c'è Italia-Germania. Bonami, come facciamo? Franceschini ne ha azzeccate parecchie, queste però non le è andata proprio giù benissimo, eh? Che dice? Vabbè, ma come si faceva a sapere che l'Italia andava con la Germania oggi? Quindi non no, tutti pensavano che uscisse al primo turno, no? O comunque che saremmo passati come secondi nel girone, sì. Quindi secondi, oggi non avremmo avuto la partita. È vero, non si può dare la colpa a nessuno. No. Ma lei cosa fa? Va al museo o guarda la partita? Sincero, Bonani? Sì, direi che guarda la partita, no? Chiaro, però la guarda al museo. La guarda al museo, me la porto in streaming al museo. Al museo. Con le cuffie. Va di moda creare gli eventi, no? Nei musei. Adesso poi di eventi e di voglia di esserci parleremo tra un attimo, a proposito del grande evento della come si chiama? Del lago. La passerella di Cristo, la piattaforma, stavo per dire, di Cristo. Però restiamo un attimo sulla questione della festa dei musei, perché Bonami l'abbiamo convocata proprio perché ci aiutasse un po' a districarsi. Ce ne sono ovviamente tanti, qualcosa da scoprire, da riscoprire, qualcosa che non sia i musei vaticani, quelli dove ci sono le code lunghissime perché tutti vogliono andare lì, e invece qualcosa di più inedito. Ma senta, guardi, a Brera dovrebbe essere famosa come musei vaticani, ma invece fino a pochi mesi fa non ci andava quasi nessuno, e nel museo della Pinacoteca di Brera a Milano ci sono dei capolavori, da Caravaggio a Raffaello a Masaccio, che meriterebbero molto più pubblico, pagante e non pagante. Quindi il famoso cesto di frutta, giusto? Sto testando la mia ignoranza, volevo capire. No, il cesto di frutta è alla Pinacoteca Ambrosiana. Questa è ecco. Anche quello è un museo da vedere. Hai vinto, Carlo. No, io invece volevo spezzare una lancia in realtà sulla questione della data, perché in realtà è anche un'ottima data, perché iniziano i saldi e mi sembra molto bello che ci siano anche, tra mille virgolette, i saldi della cultura, ovvero che nei giorni in cui si cerca di spendere meno, uno può anche spendere meno per andare nei musei. Quindi Bonami, è una buona data. Condivide, Bonami, questa impostazione? Beh, sì, ci sono i musei, in molte parti del mondo i musei sono addirittura gratis, le collezioni permanenti sono gratis, mentre le mostre, alcune mostre temporanee sono a pagamento, quindi questa potrebbe essere anche una buona idea, fare le collezioni che sono sempre lì gratis e le mostre temporanee farle a pagamento. Come qualche esempio, si cita spesso Londra. Londra per esempio. Sì. Alla Tate Modern di Londra si entra gratis a vedere la collezione, mentre le mostre si pagano. Ma noi siamo europei, quindi usiamo un altro sistema, gli inglesi non lo sono più, quindi noi usiamo un sistema diverso. Senta, i musei ce ne sono tanti. Ora io non so se fa parte dei musei statali, ma per esempio a Firenze c'è il museo anatomico della specola con le cere anatomiche, che è un museo che meriterebbe, lì forse si paga, ma non si paga tanto, meriterebbe di essere visto. Aspetti un attimo, Bonami, il museo anatomico, ma cos'è, una cosa da... Museo anatomico da Criminal Mind? No. Sì, abbastanza. Nel 1700 c'era un signore che faceva queste, invece di avere i computer, le scannerizzazioni, lui a mano faceva i corpi umani per studiare l'anatomia, le nostre budella, tutto quello che abbiamo, le ossa, e lì ci sono queste sculture a Firenze. È un museo molto polveroso ma molto affascinante. Non so se sia statale, quindi non so se rientri tra quelli che si possono andare a vedere gratis, ma comunque lo suggerirei in ogni caso. Comunque basta andare sul sito del Ministero dei Beni Culturali, c'è l'elenco di quelle di cose che si possono vedere domani gratis, come tutte le prime domeniche del mese, e stasera con il prezzo ridotto simbolico di un euro la sera. Già che mi ha citato Firenze, però, Bonami, io devo fare la domanda su questa querela. Firenze, città d'arte per definizione, il sindaco della città, Nardella, ha intrapreso questa specie di, come vogliamo chiamarla, di battaglia, di di giusta rivincita delle botteghe storiche, del decoro, della qualità del patrimonio artistico del centro storico di Firenze, che è patrimonio UNESCO, rispetto a quello che invece può essere considerato non adatto, non all'altezza, anche a livello commerciale, degradante. C'è la questione dei kebab, ma adesso c'è il divieto a McDonald's di installarsi in Piazza Duomo. È un discorso coerente, logico, secondo lei? Oppure... Beh, insomma, sì, abbastanza coerente, nel senso che insomma, McDonald's forse non ha proprio bisogno di Piazza Duomo per mettersi, insomma, a tantissimi luoghi e cioè, andare proprio a rompere le scatole dentro Piazza Duomo non è la cosa più... Ci sono tanti posti anche a Firenze abbastanza brutti dove... Cioè, ha già abbastanza introiti garantiti altrove, le dice che... Però è un po' il libero mercato, nel senso che se si comprano un posto in Duomo, si comprano un posto in Duomo. Beh, sì, a Milano c'è il McDonald's. Sì, però in tante case, ma non soltanto in Italia, in tanti appartamenti ci sono delle regole in cui certe cose non possono essere cambiate, gli infissi e le finestre. Certo. E quindi, tanto ancora di più in una piazza storica come il Duomo, forse certi, almeno all'esterno non ci dovrebbe essere segnali di che interferiscano in fondo con la qualità estetica. Ma perché del McDonald's luogo? No, per esempio, e altri negozi sì, perché non è che non ci siano dei negozi in Piazza Duomo. La contraddizione è un po' quella: ci sono dei negozi che vendono scarpe, cinture o anche borse economiche che sono molto più orripilanti a vedersi. Non è che diventa un, come dire, un modo un po' furbo anche per fare la guerra a un colosso, una multinazionale che già ha dei nemici, perché il panino non è buono, perché Ma credo che ci sia un po' di ipocrisia generale, nel senso, in McDonald's come nella Coca-Cola vediamo, io sono della generazione degli anni 70, vediamo un simbolo dell'imperialismo, ecco, no? E quindi c'è ancora un po', occhieggia questa cosa e Nardella per prendere qualche voto in più magari fa una cosa del genere. Questo è possibile. L'imperialismo, allora tutti, sai, i politici tendono a vedere quello che coincide un po' con la visione comune. Uno dice McDonald's non è buono e quindi tutti così ha ragione, la Coca-Cola fa male, allora tutti fa male quella roba lì. E tantissime altre cose. Poi ci sono invece però il piccolo marchio che fa delle scarpe che nessuno di noi si oserebbe mettere e che riempie una vetrina di un negozio appunto in una zona storica, non viene visto come il simbolo del male. Ecco, ci sono un po' queste contraddizioni, diciamo, infrastrutture mentali che ci sono rimaste un po'. Senta Bonami, adesso io faccio, se vuole rimanere con noi ancora un paio di minuti in attesa delle informazioni sul traffico, poi le voglio chiedere perché secondo lei, esperto d'arte, di questa grande successo della famosa passerella di Cristo, perché qualcuno qualche domanda se l'è fatta sul valore intrinseco. Siamo oltre il milione di visitatori, però qualcosa ci sarà, perché, ecco, tra poco. Sentirsi con un papà senza santi da pregare si può fare ed avere tanti soldi. E allora, cari ascoltatori, ben ritrovati. Di nuovo buongiorno da Alessio Maurizi. E buongiorno da Carlo Gabardini. All'800 24 00 24 vi aspettiamo sia per rinverdire il vostro ricordo e i riti propiziatori degli antichi Italia-Germania, antiche dispute. Dall'82 a Italia-Germania 4-3 a 2006, visto insomma. Che insomma stasera ci risiamo, vogliamo vedere se i vostri riti propiziatori possono in qualche modo portarci fortuna all'800 24 0024. E sia poi quello che farete invece di come rito propiziatorio oggi per Italia-Germania, sì, che inizia alle 21. Bonami farà un rito propiziatorio particolare oppure guarda la partita in tutta serenità senza... Allora, guardo ricordandomi quello che diceva quel signore, che cos'è il calcio, ci sono due squadre, la Germania vince sempre, no, vincerà l'Italia stasera. Ah, ci sono due squadre, se c'è la Germania vince la Germania, questo è il calcio. Com'è? Chi è che diceva questa frase? Questa non famosa... è una citazione. È entrata un po' nel... Ma non vale molto quando ci siamo noi, questo, esatto, va detto, perché ci siamo noi, insomma, vince sempre la Germania, no, tranne non lo quando... diciamo, io mi sto facendo gli scongiuri ovviamente per chi ci ascolta e vedremo quello che succede stasera, ma diciamo nel passato non valeva questa regola che vince sempre la Germania, anzi. E no, poi no. Ascoltatori, se volete intervenire anche sulla querelle fiorentina, sulla questione del divieto a McDonald's imposto dal sindaco di Firenze Nardella di installarsi in Piazza Duomo, ne abbiamo appena parlato con Bonami, e soprattutto adesso io le volevo chiedere questo, cioè perché, come si spiega lei il successo dell'installazione dell'artista bulgaro Cristo, di questa Floating Piers, che ha superato 1 milione di visitatori? Beh, guardi, il successo si spiega perché è una installazione spettacolare in mezzo a un lago, quindi l'opportunità di attraversare un lago a piedi un po' alla maniera di Gesù Cristo è una occasione unica. Qui sì, però sì, abbiamo anche il paradosso del quando successo diventa un difetto di una cosa, perché io ho sentito alcuni VIP, sì, che mi dicevano: ah, eravamo soli sul lago di Iseo a una cena esclusiva in 80 persone, era magico perché non c'era nessuno e si vedevano queste strisce arancioni che attraversavano il lago. Quindi a volte l'arte meriterebbe un po' più di solitudine, vuoto, no? Sì. Però ci lamentiamo sempre, nel senso che si va sempre a dire: i musei costano troppo, l'arte è una cosa troppo elitaria. Per una volta che invece ci sono 1 milione di persone, a me che il VIP che stia su in cima, che preferirebbe avere la passerella tutta vuota, boh. Ho anche dei dubbi. No, ma io sono d'accordo che si va a vedere, dico che soltanto che quella installazione lì, che era concepita come un segno, diciamo, quasi di un pittorico sull'acqua, sì, con 1 milione di persone non si vede più, ecco, quello volevo dire. Certo. Cioè la bellezza intrinseca dell'installazione con tutta la gente sopra. Ma il bello di questa installazione, io non ci sono stato, sinceramente non me ne fregava granché, devo dire la verità, non ci ho neanche pensato andare, ma per una questione proprio mia, sarò sbagliato io. Sono arido. Ma non è vero che invece il bello è proprio quello di andare, di esserci, di fare, di no, fare questa esperienza in prima persona. Bello era, allora però posso dire, allora sarebbe, non c'è bisogno di Cristo, si potrebbero fare dei grandi pontili come d'altronde si fa a Venezia durante la festa del Redentore. È vero. Che si attraversa la laguna e è una festa popolare che allora diventa una cosa, una forma d'arte diversa da quella che viene presentata come una grande installazione contemporanea, quello voglio dire. Sì, certo. Senso, oppure un pontile che resta lì, che porta da una parte all'altra del lago un'installazione permanente nella quale ognuno, poi a quel punto sì, lì in solitudine, quando sono passate le orde di turisti, uno ci si può trovare anche da solo, cioè, e goderselo. La cosa magica è attraversare il lago, se poi si attraversa sopra la passerella arancione o una marrone del, sono del d'accordo, architetto Bonami, sta succedendo qualcosa di strano al tuo telefono, sentiamo degli squilli. Ma dei io però non penso che sia uguale, se devo essere onesto, nel senso che non è semplicemente mettere giù delle assi e camminare e unire un'isola all'altra, è l'unione delle due cose, è il fatto che solamente per 3 settimane questo è possibile, è un punto di vista che non sarà mai più possibile, infatti Google ha anche mappato e quindi si può fare l'esperienza della passerella di Cristo semplicemente andando su Google News, mi sembra che sia l'unione delle due questioni, del fatto che c'è questa passerella che è anche un segno, che è questo segno arancione molto preciso in mezzo al lago, e poi c'è l'esperienza invece di andarci fisicamente e poterla vivere. Niente, Carlo è contaminato ormai dal virus del contemporaneismo e quindi lo abbiamo perso, Bonami, lo abbiamo perso. Beh, è giusto, ci sono 3 cose vette, una grande opera di arte contemporanea, poi c'è tutta la gente, che la gente stessa è un'opera di arte contemporanea, esatto, e poi c'è il fatto tecnico di attraversare e poi il fatto che dura poco, e quindi il fatto che tutto quello che dura poco attrae di più di quello che dura tanto, perché la fugacità, la infatti, fugacità. Le volevo fare una domanda che forse è stupidissima perché non me ne intendo, ma perché, visto come è andata, non si decide di prolungarla di una settimana? E qui esco dall'artista e divento invece un businessman, che uno dice: vabbè, ma già che abbiamo fatto tutta questa cosa, non si potrebbe allungarla per altri 2 settimane o 12 infatti, anni. La durata così breve mi sembra abbastanza strana, che poteva essere tenuta tutta l'estate. Poi non so se ci sono queste questioni ambientali, tecniche, economiche o di altro genere, che quello io però non sono informato, quindi non so esattamente il motivo di questa durata. La durata molto breve in effetti è un po' un peccato, perché appunto l'arte dovrebbe anche consentire di essere vista più gente possibile, ma non accalcandosi, avere il tempo di andare. Certo. Quello io non so quali sono i motivi per cui sono state solo 3 settimane, forse appunto lì si ritorna a cosa di esclusività, su cui io non sono d'accordo. Un inizio e una fine, ritorniamo al concetto di le vie di Cristo. Grazie. Sono imprescrutabili. Grazie Francesco Bonami, grazie per essere stato con noi. Buon sabato. Grazie. Buon sabato. E, a proposito di Floating Peace, voglio segnalarvi soltanto un post di Luca Mercalli, che è il nostro ospite molto spesso, il climatologo attento alla questione ambientale, che ha fatto tutta una serie di conti sul consumo di plastiche, sul fatto del riciclo, meno di questi galleggianti, eccetera eccetera. Sul sito dell'opera si dice che sarà tutto riciclato, ma non c'è scritto niente su come verrà fatto questo riciclaggio, e quindi c'è il sospetto che sia un'opera di impatto ambientale un po' troppo elevato, molto elevato forse per una durata così di 3 settimane. Ci tenevo a dirlo. Un saluto a Luca Mercalli, oltre che di nuovo a Francesco Bonami. 800 24 00 24, tra poco gli ascoltatori. Questo è Si può fare, questa che abbiamo appena ascoltato, che è il nostro Si può fare in musica, è Together as One di Kane, canzone che ci è stata segnalata da Andrew Kane. È un caso incredibile di omonimia? No, è proprio lui che ha consigliato la sua stessa canzone. Vi ricordiamo che noi stiamo sempre cercando dei Si può fare in musica, ovvero se siete dei musicisti, dei cantanti, dei compositori, anche semplicemente degli ascoltatori, ascoltate una canzone che secondo voi racchiude bene il concetto di Si può fare, beh, vi chiediamo di segnalarcela, perché poi noi la faremo sentire e la metteremo sul nostro sito a disposizione di tutti. Lo potete fare segnalandocelo o scrivendoci sui nostri mandandoci una mail a sipuofare@radio24.it, oppure sui nostri social, su Facebook sipuofare-radio24, su Twitter @sipuofare24, oppure sui nostri account personali. Il mio è @carlogabardini e c'è anche il mio @alemaurizzi. E che dire, cosa volevo dire? Cioè, avevo in testa una cosa che volevo dire. Ah certo, è questa. Tutto l'archivio storico delle playlist delle puntate di Si può fare lo ritrovate sul sito di Radio 24, la pagina di Si può fare, quindi andate a curiosare tranquillamente e ci ritrovate tutte le scelte musicali. Monica da Padova, buongiorno e benvenuta. Sì, ciao, ciao, ciao, sono Monica di Padova. Allora, buongiorno. 4 anni fa, sì, agli europei, Italia-Germania, eravamo in Puglia, eravamo appena arrivati, eravamo in un ristorantino lì in riva al mare e visse l'Italia. In questo momento stiamo scendendo per andare in Puglia, quindi questa sera la storia si ripete. Ma siete in barca a vela perché sentiamo del vento? No, magari in barca a vela, siamo in autostrada, in macchina. Ecco. Ma quindi state facendo la stessa identica rimpatriata di 4 anni fa nella speranza che il risultato sia lo stesso, giusto? Bravo, proprio così. Ma cioè, sarà lo stesso, cioè non c'è dubbio. Ma andate in vacanza sempre lì in Puglia oppure sì, quando ci sono gli europei? Appunto, questa era la domanda. Sì, è un caso. La Puglia tocca quando ci sono gli europei. E va bene, quindi è un, come dire, un rito che si ripropone, noi facciamo tutti gli scongiuri del caso. Grazie, infatti. Monica. È un bel rito, devo dire. Ma dove, cioè, no, pensa se noi avessimo un simpatico rito e quindi ci pigliamo tipo un mese di vacanza. È un bellissimo rito. Ci sono riti più onerosi di questo. Va bene, grazie Monica. Egle da Palermo, buongiorno. Egle. Buongiorno a voi. Buongiorno. Guardi, io non faccio né viaggi rocamboleschi né viaggi normali come sta a casa sua di poco fa. faccio qualche cosa di molto più casareccia e femminile, cioè io stendo soltanto biancheria maschile e li appendo con delle mollette azzurre. L'ho sempre fatto e lo faccio da anni e no, di solito porta fortuna. Sto morendo non da ridere. Ritiro la biancheria prima della fine della partita. Giusto. Ah, ma perfetto. Questo, cioè, riesce a farlo ogni volta che gioca l'Italia oppure ogni nelle volta, partite più... Ogni volta. Anche le amichevoli? Qualche volta sì, qualche volta no, però più delle volte lo faccio. Ma quindi gli uomini di casa sono pulitissimi, hanno della biancheria pulitissima? Sì, sì. Solo sì, quando ci sono gli europei o i mondiali. Loro sì, hanno la colf a tutto spiano. Mi sembra un bellissimo rito che come lei ha definito casereccio e femminile. Ho una domanda da farle. Sì, sì. Ho una domanda da farle. Perché solo gli indumenti maschili? Perché giocano gli uomini? No, perché i calciatori sono uomini in questo caso, quindi per questo. Va bene. Per il senso dei calciatori, tutto qui. E il bucato l'ha già fatto oggi, lo deve ancora fare, quello di oggi? No, lo devo fare. Cioè, farò le cose non maschili, appena avrò un minuto di tempo. Quelle maschili le riserverò per il momento adatto. Brava. E allora, che siano anche... spese poco prima e ben appese. Benissimo. Egle, anche lei, lei su Facebook... Io no, brava, ecco. No. Si faccia aiutare da figli, amici, parenti, nipoti, quello che vuole, e si faccia mettere la foto su Facebook. Vogliamo del suo bucato la foto, steso, esatto, delle mollette azzurre. Con le mollette azzurre, tutta la vita. Va perché bene, questo, va bene, spero che mi diano una mano. Va sulla bene. Pagina di Facebook o sull'account di Twitter del programma, chiocciola si può fare 24, e insomma poi trovate tutto sul sito di Radio 24. Grazie Egle. Grazie mille. Arrivederci, buona giornata. È bella questa cosa, me la vedo già con tutte le mollettine azzurre. Visivamente perfetta, visivamente funziona. È quasi un'installazione di Cristo, vorrei funziona. Dire. Funziona, è molto più ecologica anche perché le mollette poi le riutilizzi, mica le butti via dopo. Cioè. Ah, ecco cosa sbaglio. A dopo. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Crowd Me Up, la voce del crowdfunding, in collaborazione con Apple. Eccoci qua con questa musichetta sprint, la nostra sigla. Crowd Me Up, la voce del crowdfunding, ogni settimana, ogni sabato, due storie. In collaborazione con Eppela. Con Eppela. Mi piace sempre. Due storie di finanziamento dal basso, sono progetti che cercano il vostro aiuto, cari ascoltatori, e sono, si può fare perché il programma delle buone notizie dà spazio alle buone idee. Allora, anche oggi due storie, cominciamo con il primo progetto. La prima buona idea di oggi si chiama Food Chain, si tratta di un sistema innovativo per combattere la contraffazione dei prodotti alimentari. Una cosa di cui noi spesso abbiamo parlato, certo. Ci sta molto a cuore. Ad ogni prodotto viene associato un codice digitale che lo rende tracciabile e impossibile da falsificare. È con noi Federico Di Benedetto, addetto PR Marketing di Food Chain. Buongiorno Federico. Buongiorno. Buongiorno. Allora, la prima domanda che ti voglio fare è come lo traduciamo in italiano? Sai che a noi ci sta molto a cuore anche questo, l'uso della nostra cara lingua italiana, e anche per farsi capire da tutti. Ok, il food chain possiamo tradurlo semplicemente con la catena del cibo. Ok. E, questo fa riferimento proprio all'idea di base, no? Che sarebbe quello di tracciabilità, quindi di mettere a disposizione dei consumatori una tecnologia semplice e accessibile per avere le informazioni sugli attori, quelli che sono gli attori della filiera, quindi sapere chi c'è dietro la realizzazione di un prodotto che sta per essere acquistato. No, allora, siccome la regola qua è che tu devi spiegarlo che lo capisca mia nonna, questa cosa, è già tracciabilità, secondo me è okay. Cioè questa è andava bene, cioè, per gli investitori, esatto. Adesso per la nonna di Carlo, come lo spiegheresti? D'accordo, allora tolgo il cappello da ingegnere e esatto. Metto quella da, facciamo così, da giullare. Va bene, perfetto. Da imbonitore. Allora, facilissimo, uso il mio smartphone, scarico l'applicazione Food Chain che sarà presto disponibile gratuitamente e quando sono al supermercato e voglio scegliere i prodotti da acquistare, avvicino la fotocamera dello smartphone sul QR code del prodotto. In questo modo sullo smartphone posso vedere tutte le informazioni relative a questo prodotto, possono essere ad esempio le informazioni organolettiche, e poi soprattutto posso vedere anche tutte le informazioni sui produttori che lo hanno realizzato. E questo, cioè, mi serve per di... capire. Quindi informazioni che uno non trova sull'etichetta. Esatto. E semplicemente, siccome non si può chiedere a tutti di fare delle etichette chilometriche, in questo modo nell'etichetta ci saranno dentro tutte le informazioni. La prima domanda che ti faccio è: ma se c'è uno che contraffa un prodotto, contraffarà anche quel codice? No? Allora, sì, quello si può fare, però qual è il punto? Che nel caso in cui venga, praticamente per poter visualizzare tutte queste informazioni sullo smartphone, queste informazioni vengono caricate dai produttori sul nostro database. La nostra tecnologia di salvataggio dei dati sul database prevede, che si chiama blockchain, prevede che insieme al salvataggio venga fatta anche una firma digitale. Okay. E quindi che cosa vuol dire? Che poi, nel senso, è una dichiarazione che ha anche valore legale. Perfetto, quindi uno dice una cosa che deve essere quella, altrimenti è passibile naturalmente di denuncia. Voi chiedete 5.000 euro per questo vostro progetto, per fare che cosa? Come spenderete esattamente questi soldi, qualora gli ascoltatori, possibili finanziatori vi finanziassero? Sì. Allora, la finalità principale di questa campagna di crowdfunding che abbiamo fatto su Apple è quella divulgativa, cioè noi proprio vogliamo presentare la nostra tecnologia, il nostro progetto, quindi farci conoscere da quante più persone possibili e soprattutto anche raccogliere il maggior numero di commenti e feedback possibili. Quindi un modo anche per correggere e migliorare questa applicazione Food Chain, quindi non soltanto si finanzia la nascita di questo progetto, ma si diventa un po' in qualche modo anche dei testatori, degli sperimentatori. Qual è la ricompensa che avete immaginato? Perché il crowdfunding funziona anche così, con la ricompensa per chi vi finanzia. A seconda di quanto uno mette ha delle ricompense. Certamente. Allora, abbiamo pensato la ricompensa base, questa per tutte le persone che credono nel nostro progetto, in noi, e quindi hanno voglia anche solo di concederci il contributo minimo, che è quello di 5 euro, e noi abbiamo pensato a un adesivo personalizzato, un adesivo Food Chain, e poi soprattutto anche una pagina di ringraziamenti che sarà creata ad hoc sul sito di Food Chain, dove scorreranno in maniera dinamica i nomi di tutte le persone che ci hanno concesso un contributo. Diciamo che forse bisogna mettere più di 5 euro. Cosa? Bisogna mettere più di 5 euro. Sì, ci sono. Allora, noi abbiamo previsto per il momento la possibilità di fare offerte da 5, 10, 20, 40 euro. Adesso stiamo prevedendo alla portata delle tasche di tutti, naturalmente. Adesso è il momento di dare spazio al secondo progetto di crowdfunding di oggi. La seconda buona idea è un portale, si chiama calcionazionale.it e vuole essere la casa del calcio giovanile italiano. Stiamo parlando di un pubblico potenziale di milioni di persone. La loro scommessa è raggiungere 3.500 euro grazie al crowdfunding. Buongiorno ad Alessandro Grandoni, direttore responsabile di Calcio Nazionale. Ciao Alessandro. Ciao, buongiorno a tutti. Allora, anche qua beh, il calcio è più facile da spiegare alle nonne o alle mamme. Come funziona il vostro business? Beh sì, è più semplice sicuramente, anche perché oggi poi è il giorno d'Italia-Germania, quindi diciamo, il calcio oggi lo conoscono tutti. Il calcio nazionale soprattutto. Esatto. No, il nostro è un progetto che è partito 3 anni fa, noi ci occupiamo principalmente di fare i video delle partite di calcio giovanile, quindi diciamo di copriamo quasi tutta Italia, e l'idea è quella di dare visibilità a tutti i ragazzi che insomma inseguono il sogno poi di diventare e di magari giocare un giorno un famoso Italia-Germania. Certo. È il sogno di tutti i ragazzi, tra l'altro, di vedersi ripresi e immortalati, così come avviene per i campioni veri del calcio della Serie A su questo sito. E perché invece di farmi una pizza con birra questa sera 15 euro dovrei finanziare il vostro progetto calcionazionale.it, Alessandro? Ma quello perché diciamo che sicuramente quasi tutti conoscono qualche ragazzo, nipote, figlio di qualche amico che comunque gioca nel calcio giovanile, che può essere la squadra del quartiere o una squadra anche più importante. Diciamo che solitamente non tutti hanno la possibilità di essere visti, anche se magari hanno talento o hanno le qualità di essere visti da osservatori, procuratori o società più importanti. diciamo che noi cerchiamo di dare la visibilità a tutti quanti e di cercare comunque, nel caso in cui ci fosse il talento, di dare la possibilità a tutti questi ragazzi di essere visti e di avere una chance, insomma, okay, sia di cambiare la propria vita che poi di inseguire quello che è il loro sogno. Certo, ma scusa, una domanda, ma quante sono in Italia le squadre di calcio giovanile? Che immagino che siano un numero pazzesco. Beh, giovanile ci sono, beh, quelle professioniste chiaramente sono un numero, insomma, limitato, anche se vanno dai 100 a 200. Poi ma prendendo c'è tutte, un numero di ragazzi che gioca a calcio, si parla circa di 100.000 ragazzi, insomma, ogni anno che giocano per tutti i campionati federali. Di questi solitamente la media è che due o tre ne arrivano, tutti gli altri, diciamo, inseguono un sogno. Noi, ecco, ci rivolgiamo a tutti gli altri che inseguono un sogno e dargli una chance in più, insomma. No, ti chiedevo questo per un motivo molto semplice, nel senso che giustamente voi chiedete solamente 3.500 euro. Mi chiedo, ma non si può andare a chiedere alle squadre di calcio giovanili, che saranno sicuramente più di 3.500, probabilmente saranno almeno 35.000, ognuna ci mette 10 centesimi e il vostro progetto sì, parte? Quello sicuramente sì. Diciamo che la nostra idea da sempre è quella di cercare di farci da soli, nel senso di non magari chiedere contributi alle società di cui magari poi parliamo, di essere indipendenti. L'indipendenza di calcio nazionale, esatto, punto it. Era la domanda che ti volevo fare, perché avete scelto il crowdfunding e mi hai già sostanzialmente risposto. Quali sono le ricompense che avete immaginato per i potenziali investitori, Alessandro? Allora, le ricompense chiaramente vanno da quelle minime, che sono quelle, insomma, da 10 euro di ringraziamenti, oppure da 20 o 40 euro con delle pene o degli adesivi, insomma, di calcio nazionale. Poi, siccome comunque noi ci rivolgiamo ai genitori, insomma, dei ragazzi, ai ragazzi stessi o anche addetti ai lavori, ci sono tutte le possibilità, siccome noi riprendiamo circa 200-300 partite all'anno, pensate della possibilità ai genitori e ai ragazzi potersi scaricare tutte le partite che noi abbiamo ripreso, oppure quella di poter avere un video personalizzato. Ah, il video personalizzato, ragazzi, è insomma bellissimo. Immagino già il tifo dei genitori, dei nonni, degli zii, che sono sempre appassionatissimi quando ci sono figli e nipoti che giocano a calcio. Allora, due progetti di crowdfunding per il finanziamento dal basso presentati oggi, si può fare su Radio 24, mi sta andando via la voce. Avete 30 secondi entrambi per fare il vostro appello e convincere gli investitori, perché i nostri ascoltatori in questo momento sono sì ascoltatori, ma sono anche potenziali investitori. Ritorniamo a Food Chain, il primo progetto di cui abbiamo parlato. Federico Di Benedetto, in 30 secondi, come convinci gli ascoltatori? Ma sicuramente il Made in Italy è qualcosa che ci vede protagonisti a livello internazionale. Purtroppo ultimamente è stato calcolato che il danno che deriva dal falso Made in Italy, dall'Italian Sounding, insomma dalla pirateria agroalimentare in generale, è in continuo aumento. Si parla di un business che fattura miliardi di euro, e quindi è di fondamentale importanza utilizzare una tecnologia che possa aiutare a combattere efficacemente questo fenomeno. Ah, bene, hai sforato, però metteva paura. Di poco, sei stato molto bravo. No, metteva veramente paura. Bene, questi erano i 30 secondi per Food Chain. Invece le chiedo anche a te, Alessandro Grandoni, 30 secondi per convincere gli ascoltatori a investire su di voi, su calcionazionale.it. Vai. Innanzitutto perché in questa maniera si può dare una possibilità a tutti quei ragazzi che, insomma, appunto abbiamo detto, il sogno è diventare dei calciatori. Secondo poi, visto che oggi è il giorno Italia-Germania, per arrivare a quel famoso Italia-Germania, insomma, c'è anche bisogno di iniziare a investire sui giovani calciatori italiani, non solo sugli stranieri. Grazie al nostro portale sicuramente noi avremo la possibilità di far conoscere il più possibile i talenti che ci sono nel calcio italiano. Mamma mia, anche in anticipo. No, siete stati bravissimi. Devo dire che se i vostri progetti sono bravi come siete stati voi e bravi a spiegarli, siamo a posto. Grazie. Grazie a Food Chain e a calcionazionale.it, i due progetti di finanziamento dal basso che abbiamo presentato oggi. Ascoltatori, sul sito di Eppela trovate il modo di aiutarli, di sostenerli. Sì, li abbiamo già salutati, sì. Ciao. Vogliamo sentire loro ciao? Sì, ciao. Grazie a voi. Avete un secondo per dire ciao. Allora, 800 24 00 24, voi ascoltatori invece avete ancora il tempo, oltre che di andare su Appela e sostenere uno di questi progetti, di chiamarci per raccontarci i vostri riti propiziatori per Italia-Germania di questa sera, che cosa avete fatto le scorse grandi edizioni e che cosa state facendo già adesso. Sta salendo la tensione, sta salendo la tensione. Sono solo 9.46 di mattina, abbiamo ancora 11 ore di attesa, siamo già esausti. Mancano 11 ore, ma sarà durissimo. Traffico. Crowd Me Up, la voce del crowdfunding in collaborazione con Appela. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Allora, 800 24 00 24, c'è Giovanna che ci chiama da Milano. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno. Eccola qua, su cosa volevi intervenire, Giovanna? Volevo raccontare un episodio nel 1982, quando c'erano i mondiali di calcio. Sì. Italia-Germania, la finale. Siamo già al secondo episodio sul 1982, Primo era stato Italo, vai Giovanna, sentiamo. Ecco, eravamo a Sottomarina di Chioggia, avevo due bimbe, una di 6 anni, l'altra di 4 mesi. Sì. Avevamo preso questa casa a Sottomarina di Chioggia e mio marito ci raggiungeva nel fine settimana. E in quell'occasione, l'ultima partita, lui era venuto al sabato, ricordo. Sì. E noi ci eravamo preparate già, convinte di poter superare, diciamo, di vincere la partita. Avevo preparato il passeggino di mia figlia con tanti palloncini, pieno di palloncini colorati, bianco, rosso e verde. Da tutta questa attesa immagino che poi sia successo un colpo di scena, qualche cosa di inatteso. Ecco, è successo che mio marito, tra l'altro, era arrivato un po' in ritardo perché sì, l'autostrada era piena, e, diciamo, il percorso ad arrivare lì a Sottomarina di Chioggia era interrotto. Arrivò proprio all'ultimo momento nel gol finale, dove c'è stata l'esplosione totale di, sì, tutte le persone, sì, e uscimmo tutti quanti. Poi avevo fatto amicizie con tante persone di Milano, tutte mamme là in vacanza con i figli piccoli, e eravamo usciti tutti quanti con questa esplosione di felicità. Ma non c'è un rito particolare? È molto lungo questo rito. Pronto? È un rito molto complicato, Giovanna. Io sto cercando di prendere appunti per ripeterlo, ma non mi è chiaro. No, volevamo sapere se alla fine di tutto questo c'era una morale, un particolare, un rito che si va ripetendo da allora, da quel momento, quando, sì, gioca l'Italia con la Germania. Qual è il rito? Il rito è che comunque c'è sempre questa rivalità, almeno a distanza di tanti anni è ancora questa rivalità. E ancora oggi io ci tengo, certo, che stasera vinca l'Italia. Va bene, ecco, va bene, Giovanna, è chiaro, ci teniamo tutti. Insomma, questo era poi il suo racconto di quell'Italia lì, dell'Italia, sì, Germania 1982. Io, per esempio, dov'ero? Ero in un bar a vedere la partita col mio papà, col mio babbo. Anch'io bar. In un bar, in realtà eravamo nella sala sopra del bar, il bar era sotto, era già troppo pieno, ci hanno messo a disposizione la sala di sopra e ovviamente successe di tutto, credo che volarono anche delle sedie dalla finestra, successe veramente l'inverosimile, e quindi il bar, luogo storico dove si guardavano le partite. Allora, poi abbiamo parlato con il responsabile della RA che fa le maglie dell'Islanda stamattina, quasi un'ora fa a questo punto, e c'è una notizia che in effetti è clamorosa, dà l'idea del livello di cui stiamo parlando, di attaccamento degli islandesi alla loro squadra, ma anche del fatto che non sono tanti gli islandesi. Quanti sono gli islandesi? Adesso controlliamo. Lo sai che la partita che con l'Inghilterra l'hanno vista il 99,8% dei telespettatori islandesi? È lo share più bello di sempre, tutti gli autori dicono porca miseria, noi con Sanremo siamo molto indietro con i nostri ascolti, un ascolto pari al 100% è incredibile. E l'altra notizia assurda è che l'8% degli islandesi si trova in Francia per seguire la squadra agli europei, cioè se fosse l'Italia sarebbe circa 4-5 milioni di persone, 4,8 milioni di persone tutti in Francia a Bordeaux a vedere la partita, e con ciò nonostante tutto solo l'8%, cioè si sono mossi in proporzione quasi un islandese su 10. Andiamo e comunque muove, sì, muove anche l'economia, sarà anche per gli ultimi attacchi che ci sono stati, ma le persone che stanno decidendo dove andare in vacanza, moltissime decidono di andare in Islanda, cioè c'è stato un aumento. Del turismo in Islanda. Abbiamo ancora pochi minuti per premiare l'ascoltatore che ci fa, ha fatto il racconto più bello su Italia Germania, Fabio da Brescia. Intanto buongiorno e benvenuto. Sì, buongiorno. Su cosa volevi intervenire, Fabio? Volevo intervenire su Floating Piers che parlavate prima. Sì, sì. Ci sei stato? Ci sei stato? Sì, sì, abito anche a poca distanza. Ti è piaciuto? Sì, ma il discorso che forse avete lasciato fuori un attimo, sì, perché quando dicevate che si può fare un pontile, sì, ma infatti il nome è Floating Piers, il fatto della camminata flottante, cioè è anche quella la caratteristica. Certo, che non è... che non è un pontile, che non è per niente attaccato, ma che in realtà fluttua. Bravissimo. Sì, perché prima un po' l'avete tralasciato quel fattore qua, che forse è la cosa più importante. Scusa, perché Fabio, colorato, ci siamo fatti prendere... Abbiamo anch'io. Abbiamo un po' semplificato. Condivido, no, in realtà sostenevamo, sì, che non è una passerella, non è semplicemente... era un po' una provocazione da parte di Bonomi di dire come una passerella. Io sono pienamente d'accordo con te e sostengo che questa non è una passerella, è un evento che dura... un tempo preciso ed è molto legato al fatto appunto di fluttuare, di camminare di avere la sensazione di camminare sull'acqua, che ovviamente con un ponte di cemento non hai. Voglio dedicare ancora un minuto a Paolo da Modena. Buongiorno Paolo. Buongiorno a voi. Buongiorno. Allora, io ho un ricordo in diretto di Italia Germania. Sì, perché in diretto? In diretto perché ero nella pancia di mia mamma. Fantastico. Nel 1970. E tutti sostengono in famiglia che io sono diventato un grande appassionato di calcio in virtù di quella notte così particolare, così emozionante. La notte calda d'estate. Ma, e che cosa farai? Cosa farai stasera per Italia-Germania? L'amore con tua moglie. Stasera credo, mia moglie è via purtroppo stasera, quindi... L'amore con un'altra. No. Vabbè, bisogna mantenere in qualche modo la scaramanzia, Rito. No, vabbè. No, penso che andrò in parrocchia, c'è un maxi schermo, faremo una grande festa. Comunque, però, insomma. Dai, va bene. Paolo, grazie. Dobbiamo chiudere. Grazie. Grazie a voi. Ciao. Io immaginavo un altro esito per la serata di Paolo, invece in parrocchia qua tutti stanno facendo dei strani gesti. Allora, bisogna vincerla questa partita, bisogna rispettare tutti i riti. Ascoltatori, domani vi veniamo a cercare per capire come vi siete comportati, siete stati coerenti con quello che ci avete detto oggi. Intanto oggi vince Italo da Napoli, che è andato assolutamente vestito da Pulcinella a Madrid a vedere l'Italia Germania, e che ha promesso a noi di vestirsi da Pulcinella anche stasera, e quindi lo sentiremo domani e deve postare la foto su Facebook naturalmente. Ciao a tutti, grazie ad Andrea Piana, Claudia Schiattone, Paolo Corleoni oggi in regia, Giovanni Melchiori in introduzione, nuova entrata, insomma in redazione, sarà con noi tutta l'estate. Ciao da Alessio Maurizio. E ciao da Carlo Gabardini e chi ci ascolta in podcast. A domani.